Siamo con Valerio Carocci del Piccolo Cinema America per parlare del nuovo e si spera definitivo capitolo dell'Arena San Cosimato a Roma dal 2 luglio per tutto il mese. Ben ritrovato. Ciao. Ci racconti? Sì, abbiamo riconquistato Piazza San Cosimato dopo essere rimasti esuli per via di un bando voluto dal vice sindaco Luca Bergamo. Il bando che hanno imposto per l'utilizzo di quella piazza, al quale ricordiamo ci siamo rifiutati di partecipare, è andato deserto, è stato un flop e pertanto abbiamo riprotocollato una nuova richiesta di occupazione di suolo pubblico per la concessione della piazza. Ricordo a tutti che noi non abbiamo mai percepito fondi da Roma Capitale per l'organizzazione dell'Arena in Piazza San Cosimato, quindi al di là della questione politica di questi bandi, a maggior ragione c'era una vacuità amministrativa sul perché si era proceduto in questo senso. Siamo felici che comunque l'amministrazione comunale sia tornata sui propri passi, hanno accettato l'offerta che gli avevamo fatto a febbraio, ovvero di pagare l'occupazione di suolo pubblico e evitando qualunque contributo anche indiretto, ma soprattutto di mettere due sere a settimana le cuffiette per non disturbare gli 11 consiglieri e la famigerata Gemma Guerrini. Quindi l'amministrazione ha accettato questa nostra proposta che prima aveva sommariamente snobbato e siamo riusciti ad ottenere ciò che volevamo, toto, e a ritornare in Piazza San Cosimato, tanto che adesso stiamo proprio firmando i preventivi per rismontare il Kennedy e rispostarlo dentro Piazza San Cosimato. Quindi l'Arena Kennedy si sposta a San Cosimato? Esattamente, si conclude il 29 giugno con la proiezione di La città ideale presentata dal regista Luigi Locascio. Il 2 luglio sera, se tutto va bene, dovremmo essere operativi in Piazza San Cosimato con le nostre solite rassegne retrospettive. Parallelamente ricordiamo a tutti che però non si spegneranno gli schermi che sono già attivi al porto turistico di Roma, Ostia, e al parco del Casale della Cervelletta a Tor Sapienza, dove ad esempio le nostre retrospettive stanno andando avanti. Ieri c'era una proiezione di Almodovar al parco della Cervelletta, mentre stasera Riccardo Milani e Paola Cortellesi presenteranno la loro opera, e al porto turistico di Roma sabato arriverà Claudio Mendola presentando il permesso 48 ore fuori. Perfetto. Allora, per tutte le informazioni rimandiamo a sito internet e pagina Facebook. Ricordiamo a tutti, siamo partiti il 1 giugno, le arene che sono tre, Ostia, Tor Sapienza, Cervelletta con Trastevere, Kennedy e poi San Cosimato, proseguiranno fino all'8 settembre. Il programma è su www.ilcinemainpiazza.it o sulle nostre pagine Facebook, I ragazzi del Cinema America, chiocciola Piccola America per Facebook e Instagram. Valerio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Federico, e complimenti per quello che fai, un abbraccio grande. Grazie, ciao. Ciao.